America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Donald Trump è rientrato dalla Cina e subito, come dire, è riuscito a fare una gaffe, o meglio, una gaffe o un messaggio per la sua base elettorale. Ecco, in un incontro con i giornalisti il presidente è riuscito a sorprendere di nuovo, come vi dicevo, il tema è Roy Moore. Ve ne ho parlato nei giorni scorsi. Roy Moore è il suo candidato, scelto dal terribile Steve Bannon, ma è il suo candidato per un seggio senatoriale in Alabama. Moore, ex giudice, cristiano evangelico, fanatico dell'interpretazione alla lettera della Bibbia, che opera anche quando era giudice, operava seguendo la Bibbia, aveva i 10 comandamenti dietro la sua poltrona di giudice, poi è stato costretto a rimuoverli. E tutto questo, quindi fedelissimo della Bibbia, e poi risulta essere stato un molestatore di minorenni, addirittura di una ragazza di 14 anni, altre ragazze di 15, di 16, in tutto 5 donne ormai, perché i fatti appartengono al passato, hanno raccontato di essere state molestate da Moore. I repubblicani molto imbarazzati hanno detto si deve ritirare. Mitch McConnell, il capo della maggioranza repubblicana al Senato, ha detto addirittura non c'è posto per lui al Senato. E Roy Moore? Naturalmente non si scompone, dice che sono tutte menzogne, non mollerò mai, questi sono attacchi fatti di bugie. Come abbiamo visto però, le prove che sono state raccolte finora hanno convinto i senatori. Benissimo. E Donald Trump? Well, Rosie O'Donnell's disgusting. I mean, both inside and out. When you look at her and when you see the mind... Ecco, Trump in questa sua dichiarazione coi giornalisti, è stata ripresa dal New Yorker in particolare, dice attenzione, dobbiamo essere davvero molto prudenti, perché tutta questa vicenda non riguarda Roy Moore, ma riguarda un importante processo decisionale che sta avvenendo nel nostro paese. E cioè, noi qui stiamo decidendo se andremo a cominciare a credere alle donne, qualcosa che non abbiamo mai fatto prima, perché finora abbiamo sempre dato credito agli uomini ed è un sistema che ha funzionato benissimo, che non ha creato problemi, è stato un sistema perfetto per il nostro paese. Dunque, se adesso cominciamo a credere alle donne, voglio dire, facciamo molta attenzione. Ecco, e devo dire che è alquanto sorprendente una dichiarazione così apertamente contro le donne, contro la loro credibilità, anche per un personaggio politicamente scorretto come Trump. Lo dico perché Trump stesso è orgoglioso di essere politicamente scorretto, dice che la correttezza politica ha portato una gran quantità di problemi al paese, dunque smettiamola di fare moine che non hanno alcuna ragione di esistere. Chiaramente i compagni di partito si grattano il capo, perché Moore, a questo punto rafforzato dal presidente, quasi sicuramente continuerà per la sua strada, continuerà per la sua corsa, e chissà, in uno stato del profondo sud come l'Alabama, uno stato o l'altro povero, in difficoltà, potrebbe anche vincere, e allora sì che ne vedremo delle belle. Thank you for your gracious hospitality to my family. This is my first visit to Japan, and the warmth you have shown us, the beauty of your landscape. Ecco, a creare ulteriore confusione in questa situazione su Moore si è inserita Ivanka Trump, la figlia prediletta del presidente, e ha detto c'è un posto speciale nell'inferno per le persone che oltraggiano i bambini. Devo ancora dare una spiegazione valida e non ho motivo di dubitare dei resoconti delle vittime. E dunque lei va esattamente nella direzione opposta a quella del padre. Sappiamo che Ivanka è una donna molto intelligente, molto aperta, era a favore di proseguire lungo la riforma per l'ambiente, era a favore di certe liberalizzazioni, poi però naturalmente ha dovuto adeguarsi, perché nel momento in cui sta in amministrazione si deve adeguare. Comunque sia, Donald Trump torna dal suo viaggio asiatico, un viaggio, come vi ho raccontato in altre occasioni, di ampio respiro, un viaggio in cui si è confrontato con la Cina, ma fino a un certo punto, perché la Cina e Xi Jinping in particolare sono riusciti così a far danzare il presidente americano attorno a problematiche che per loro sono molto interessanti. Dunque è un viaggio che sotto un certo punto di vista avrebbe dovuto aprire molti orizzonti a Donald Trump, soprattutto in Cina. Avrebbe dovuto rendersi conto di avere davanti a sé un paese che sta guardando a un'espansione regionale, sta guardando alle sfide del futuro, all'ambiente, alla tecnologia, alle nuove forze lavoro, non alle sfide del passato. Ecco, da questa sua presa diretta con la Cina, beh, forse poteva riportare indietro qualche cosa di diverso. Non mi sembra che questo sia successo, anche a giudicare dalle dichiarazioni di cui vi ho raccontato in inizio di trasmissione. Il viaggio è andato bene invece in Corea del Sud, dove il presidente ha fatto un discorso, contrariamente a certi reportage che dicevano che questo viaggio anche in Corea del Sud era andato bene, invece ha fatto un discorso secondo me molto interessante, molto importante, un discorso nella tradizione della politica estera americana. Vi dicevo, tornando, ha trovato vari problemi. Un altro problema, riguarda che Ron Johnson, un importante esponente del Partito Repubblicano, un senatore, ha detto di essere contrario a certe formule della riforma fiscale. E dunque un altro ostacolo in questo complesso processo di riforma. Tra l'altro la Camera dovrebbe votare a giorni la sua versione della riforma fiscale, e i mercati di conseguenza stanno correggendo, si accorgono che la riforma fiscale che avevano già scontato, avevano dato per fatta, forse non andrà avanti come immaginavano. C'è in corso alcune giornate in cui Wall Street ha perso, alcuni si domandano se non possa essere questo il momento in cui parte una correzione per l'indice Dow Jones dopo una corsa sfrenata durata quasi un anno. A questo contribuisce anche una perdita di valore della General Electric, che continua a perdere valore dopo l'annuncio di un piano di ristrutturazione che non è stato accolto bene sul mercato, e quindi se Trump viene anche abbandonato dalla borsa, anche quello potrebbe diventare per lui un problema. In compenso cerca di procedere verso l'allentamento delle regole per il controllo delle banche, ha fatto un paio di nomine. Office of Control of the Currency dovrebbe nominare Joseph Otting, ex amministratore delegato di One West Bank, e dunque di una banca. E anche in questo caso è un po' come mettere la volpe, se vogliamo, a fare la guardia al pollaio. Comunque sia, le problematiche sono tante, continuerò a raccontarvele qui ad America 24 nei prossimi giorni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa cota atlantica che vi momenti di tensione, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Donald Trump ha salutato l'Asia, è rientrato in America. Non sappiamo se Ray Moore saluterà questa sua corsa per il seggio senatoriale, insomma molti goodbyes in molte direzioni. Dunque ho pensato di proporvi una canzone che oggi è al quarto posto nella classifica di Billboard, di Sam Smith, Too Good at Goodbyes. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to the York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!